ma non poteva vietarsi il gemito degli sguardi, il sudore della fronte, il soprassalto convulso subito represso delle membra. «Non ho dolori. Mi lamento perché sono messa male nel letto. Mi sento i capelli in disordine. Ho un po' di nausea, ho urtato contro il muro». E mia madre, ai piedi del letto, inchiodata a quella sofferenza, come se, a forza di trapassare con lo sguardo quella fronte dolorosa, quel corpo che nascondeva il male, potesse finalmente raggiungerlo e strapparlo via, mia madre rispondeva: «No, mammina, non ti lasceremo soffrire così. Troveremo qualcosa. Abbi pazienza un secondo. Mi permetti di darti un bacio senza che tu debba muoverti?» E chinandosi sul letto, le gambe piegate, quasi inginocchiata, come se, profondendo tanta umiltà, aumentasse la sua speranza di vedere esaudito il dono appassionato di se stessa, porgeva a sua madre l'intera sua vita dentro il volto come dentro un ciborio, decorato a rilievi di fossette e di rughe, così appassionate, desolate e dolci, che era impossibile dire se a scavarle fosse stato lo scalpello di un bacio, di un singhiozzo o d'un sorriso. La nonna si sforzava, a sua volta, di tendere il viso verso mia madre. Era talmente mutato che, se avesse avuto la forza di uscire, la si sarebbe riconosciuta soltanto dalla piuma del cappellino. Sembrava che i suoi tratti, come alle lezioni di modellato, si adoprassero in uno sforzo che la distoglieva da ogni altra cosa per adeguarsi a un modello che ci restava ignoto. Questo lavoro di statuaria volgeva ormai al termine, e se il volto della nonna era diventato più piccolo, si era anche in ugual misura indurito. Le vene che lo percorrevano facevano pensare non al marmo, ma a qualche pietra più ruvida. Sempre proteso in avanti per la difficoltà del respiro, ma anche per sfinitezza, ripiegato in se stesso, il suo viso scabro, diminuito, atrocemente espressivo, somigliava, come in una scultura primitiva, quasi preistorica, a quello aspro, violaceo, rossiccio, disperato della selvaggia custode in un sepolcro. Ma l'insieme dell'opera non era ancora compiuto. Dopo si sarebbe dovuto spezzarla. E poi, dentro quel sepolcro, custodito con così estenuante, dura contrazione, discendere. In uno di quei momenti nei quali, secondo l'espressione popolare, non si sa più a che santo votarsi, siccome la nonna tossiva e starnutiva violentemente, De Moretta, al consiglio di un parente, a detta del quale, ricorrendo allo specialista X, ce la saremmo cavata in 3 giorni. La gente di mondo usa dir questo del proprio medico e le si crede, così come Françoise credeva agli annunci pubblicitari dei giornali. Lo specialista arrivò con la sua valigetta piena dei raffredduri di tutti i suoi clienti, come l'otre di Eolo. La nonna si rifiutò recisamente di farsi visitare, e noi, in imbarazzo verso quel medico che si era disturbato inutilmente, ci conformammo al suo desiderio di esaminare i nostri rispettivi nasi, che pure non avevano un bel niente. Lui sosteneva che sì, qualcosa c'era, e che, fosse emicrania o colica, mal di cuore o diabete, si trattava sempre di una malattia del naso non diagnosticata. A ognuno di noi disse: «Ecco un cornetto che sarei molto lieto di rivedere. Non aspettate troppo, con qualche igni puntura vi toglierò il fastidio». Noi, evidentemente, pensavamo a tutt'altro. Non di meno ci chiedemmo: «Ma quale fastidio?» A farla breve, tutti i nostri nasi erano malati. L'unico sbaglio dello specialista fu di parlarne al presente. Già l'indomani, infatti, la sua visita e la sua medicazione provvisoria avevano sortito il loro effetto. Ognuno di noi ebbe il suo catarro. E lui, incontrando per strada mio padre squassato dalla tosse, sorrise al pensiero che qualche ignorante potesse attribuire la malattia al suo intervento. «Al momento della sua visita eravamo già malati». La malattia della nonna diede modo a varie persone di manifestare una sovrabbondanza o una carenza di simpatia che ci sorpresero non meno della combinazione fortuita grazie alla quale gli uni o gli altri ci scoprivano catene di circostanze o addirittura di amicizie che non avremmo mai sospettate. E le dimostrazioni di interesse dateci da quanti venivano di continuo a prendere notizie ci rivelavano la gravità di una malattia che, sino a quel momento, non avevamo isolata, distinta a sufficienza dalle mille impressioni dolorose vissute accanto alla nonna. Le sue sorelle, avvertite per telegramma, non si mossero da Combré. Avevano scoperto un artista che seguiva per loro eccellente musica da camera, nell'ascolto della quale pensavano di trovare, meglio che al capezzale della malata, un raccoglimento, una dolente elevazione la cui forma non mancò di apparire bizzarra. Madame Sazerat scrisse alla mamma, ma come una persona che una brusca rottura di fidanzamento, la rottura in questo caso era il drefusismo, avesse per sempre separata da noi. In compenso, Bergotte veniva ogni giorno a passare parecchie ore con me. Gli era sempre piaciuto piantare le tende per un po' in una stessa casa nella quale potesse esimersi da qualunque impegno, ma a un tempo lo faceva per parlare senza essere interrotto, adesso per restare a lungo in silenzio senza che nessuno gli chiedesse di parlare, perché era molto malato. Chi diceva di albuminuria, come la nonna, secondo altri aveva un tumore. Andava indebolendosi. Faceva una gran fatica a salire le nostre scale e ancora di più a scenderle. Spesso, benché si appoggiasse alla ringhiera, barcollava e credo che se ne sarebbe rimasto in casa se non avesse temuto di perdere completamente l'abitudine, la possibilità di uscire. Lui, l'uomo con la barbetta, che non molto tempo prima avevo conosciuto così pieno d'energia, non ci vedeva più e persino nel parlare si imbrogliava sovente. Ma frattanto, e inversamente, l'insieme delle sue opere, conosciute solo dai letterati, all'epoca in cui Madame Swann ne patrocinava i timidi sforzi di disseminazione, ora cresciute e forti agli occhi di tutti, aveva assunto presso il vasto pubblico uno straordinario potere espansivo. Succede, certo, che uno scrittore diventi celebre solo dopo la sua morte, ma Bergotte era ancora in vita, e mentre stava percorrendo il suo lento e inconcluso cammino verso la morte, assisteva a quello delle sue opere verso la fama. Un autore morto, almeno, non fa nessuna fatica ad essere illustre. L'irraggiarsi del suo nome si ferma alla pietra della sua tomba. Nella sordità del sonno eterno, la gloria non può importunarlo. Ma per Bergotte l'antitesi si era costituita solo in parte. Egli esisteva ancora abbastanza per soffrire del tumulto. Si muoveva ancora, sia pur penosamente, mentre le sue opere, scattanti come figlie che amiamo, ma che ci stancano con la loro impetuosa giovinezza e i loro svaghi chiassosi, trascinavano ai piedi del suo letto, giorno dopo giorno, nuovi ammiratori. Quelle sue visite arrivavano per me con qualche anno di ritardo, perché non lo ammiravo più come prima. Non che questo fosse in contraddizione con l'accrescersi della sua fama. È raro che un'opera sia al tempo stesso capita e vittoriosa senza che quella, ancora oscura, di un altro scrittore abbia cominciato, per poche intelligenze più esigenti, a sostituire con un nuovo culto quello che ormai si è imposto quasi definitivamente. Nei libri di Bergotte, che rileggevo spesso, le frasi mi apparivano non meno chiare delle mie stesse idee, dei mobili della mia stanza, delle carrozze nella strada. Ogni cosa vi si scorgeva facilmente, se non quale la si era sempre vista, perlomeno quale si era abituati a vederla adesso. Ebbene, un nuovo scrittore aveva cominciato a pubblicare dei libri in cui i rapporti fra le cose erano così diversi da quelli con cui essi si presentavano ai miei occhi da far sì che io non capissi quasi nulla di ciò che egli scriveva. Per esempio diceva «I canali di irrigazione ammiravano la bella tenuta delle strade». E fin qui era facile. Potevo correrci lungo quelle strade, che partivano ogni 5 minuti da Brianne e da Claudel. A questo punto non capivo più, perché mi ero aspettato un nome di città e mi veniva offerto un nome di persona. Però sentivo che non era la frase ad essere malfatta, ma io non sufficientemente forte e agile per andare sino in fondo. Riprendevo slancio, mi aiutavo con i piedi e con le mani per raggiungere il punto dal quale avrei potuto scorgere i nuovi rapporti fra le cose. Ogni volta, arrivato più o meno a metà della frase, scivolavo indietro, come mi sarebbe successo durante il servizio militare nell'esercizio chiamato portico, il che non mi impediva di nutrire per il nuovo scrittore l'ammirazione di un ragazzo maldestro, abituato a prendere 0 in ginnastica verso un compagno più bravo. Da quel momento cominciò a decrescere la mia ammirazione per Bergotte, la cui limpidezza mi sembrava ora l'assenza di qualcosa. In un determinato periodo si riconoscevano le cose se a dipingerle era Fromentin e non più se era Renoir. Le persone raffinate vengono a dirci oggi che Renoir è un grande pittore del Settecento, ma dicendolo dimenticano il tempo e che ce n'è voluto parecchio, anche in pieno 800, perché Renoir venisse consacrato grande artista. Per ottenere di essere riconosciuti, il pittore originale, l'artista originale, procedono con la tecnica degli oculisti. Il trattamento messo in atto dalla loro pittura o dalla loro prosa non è sempre gradevole. Quando è terminato, lo specialista ci dice: «Adesso guardate!» Ed ecco che il mondo, che non è stato creato una sola volta, ma tutte le volte che è sopraggiunto un artista originale, ci appare completamente diverso da prima e tuttavia perfettamente chiaro. Per la strada passano donne diverse da quelle di un tempo, perché sono dei Renoir, quei Renoir nei quali, allora, ci rifiutavamo di vedere delle donne. Anche le carrozze sono dei Renoir, e l'acqua, il cielo. Vorremmo passeggiare in una foresta simile a quella che, il primo giorno, ci sembrava tutto tranne una foresta, per esempio un arazzo con tutte le sfumature possibili, ad eccezione, appunto, di quelle tipiche delle foreste. Così è l'universo, nuovo e perituro, che è stato appena creato. Durerà sino alla prossima catastrofe geologica scatenata da un nuovo pittore o da un nuovo scrittore originali. Quello che, per me, aveva preso il posto di Bergotte mi stancava non con l'incoerenza, ma con la novità, perfettamente coerente, di rapporti che non ero abituato a cogliere. Il punto, sempre lo stesso, in cui mi sentivo scivolare indietro, indicava l'identità di ogni sforzo che dovevo compiere. Del resto, quando, una volta su 1000, riuscivo a seguire lo scrittore sino alla fine della frase, quel che vedevo era sempre d'una bizzarria, di una verità, di un fascino simili a quelli trovati in precedenza nella lettura di Bergotte, ma più deliziosi. Non erano passati molti anni, mi dicevo, da quando, d'un siffatto rinnovamento del mondo, simile a quello che mi aspettavo dal suo successore, era stato Bergotte il portatore. E arrivavo a domandarmi se fosse poi vera la distinzione che siamo soliti fare tra l'arte, non più avanzata oggi che ai tempi di Omero, e la scienza con i suoi continui progressi. Forse l'arte, al contrario, assomigliava in questo alla scienza. Ogni nuovo scrittore originale mi sembrava in progresso rispetto a chi l'aveva preceduto. E come escludere che fra una 20 d'anni, quando io fossi in grado di seguire senza fatica il nuovo d'oggi, ne potesse sopraggiungere un altro al cui cospetto l'attuale sarebbe andato di corsa a raggiungere Bergotte? Parlai a quest'ultimo del nuovo scrittore. Bergotte mi inflisse una fiera delusione, non tanto assicurandomi che il suo stile era rozzo, banale e vacuo, quanto raccontandomi che l'aveva visto e che assomigliava, al punto da scambiarli l'uno per l'altro, al mio amico Bloch. Questa immagine si proiettò inesorabilmente sulle pagine scritte, e non mi ritenni più in dovere di affaticarmi a capirlo. Se Bergot mi aveva parlato male di lui, era meno, credo, per gelosia del suo successo che per ignoranza della sua produzione. Non leggeva quasi nulla. La maggior parte del suo pensiero, ormai, dal cervello era finita dentro i suoi libri. Era smagrito, come se di quelli l'avessero operato. Ora che si era sgravato di tutto, o quasi, ciò che pensava, il suo istinto di riproduzione non lo spingeva più all'attività. Viveva la vita vegetativa di un convalescente, di una puerpera. I suoi begli occhi rimanevano immobili, vagamente abbacinati, come gli occhi di un uomo che, disteso in riva al mare, osserva il frangersi di ogni piccola onda e nient'altro, immerso in una vaga fantasticheria. D'altra parte, se il mio interesse a conversare con lui era scemato, non ne provavo alcun rimorso. Era talmente abitudinario che qualsiasi abitudine, la più semplice come la più lussuosa, una volta che l'aveva contratta gli diventava, per un certo tempo, indispensabile. Non so per quale ragione venne da noi la prima volta, ma poi ogni giorno fu per la ragione che era venuto il giorno precedente. Veniva a casa nostra come sarebbe andato al caffè, perché non gli si parlasse e per potere, assai di rado, parlare, così che, alla fin fine, sarebbe stato impossibile, volendo dedurre qualcosa da tanta assiduità, ravvisare il minimo segno che egli fosse commosso dal nostro dolore o provasse qualche piacere a conversare con me. Ma quella stessa assiduità non era, in quanto tale, indifferente a mia madre, sensibile a tutto quanto potesse venir considerato come un omaggio alla sua malata. E ogni giorno mi diceva: «Soprattutto non dimenticarti di ringraziarlo».